Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti e buon anno da me, dallo chef 2018, da vivere alla grande. Io c'ho ancora sodo da ieri sera. Oldani non si sa dove sta arrivando, ecco lì, lo vedo dietro al vetro. Siamo pronti per partire per un'altra grande giornata di Mangia come parli. Non vi molliamo nemmeno il primo dell'anno, ma poi questa energia dove la trovo? Io c'ho sodo dal letto alle 8 di mattina. Buongiorno a tutti, benvenuti a Mangia come parli. Oggi è una puntata scoppiettante, perché parliamo di un prodotto, di una serie di prodotti. Di più prodotti. Sì, la selvaggina. Che cosa comprende la selvaggina, chef? Buongiorno, diciamolo subito. Selvaggina da piuma o da pelo? Oddio, cominciamo con le difficili. Sì, un po'. Poi insomma, quella allevata o quella migratoria? Oddio, già c'ho un cerchio alla testa. Allora, innanzitutto il benvenuto al primo ospite della giornata. Vi ricordo 349-238-6666 per i vostri SOS Oldani. Do benvenuto al professor Enzo Ghinazzi in arte pupo. Come Enzo, stai? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Pierluigi, buongiorno Davide. Dove sei? In che parte del mondo sei? Allora, vi sto parlando da Astana, la capitale del Kazakistan, perché stasera avrò qui un evento privato. Sì. E poi ieri mi trovavo a San Pietroburgo, io se mi muovo durante le feste di Natale, mi muovo molto nei paesi dell'est. Come si mangia in Russia, in Kazakistan? Come si mangia? Di cosa ti nutri? Ma di cosa mi nutro? Io sono abbastanza classico, perché... E la mia alimentazione è rigorosa, io mangio sempre le stesse cose, anche quando vengo qua in Russia non mangio roba con condimenti, mangio tutto scondito, mangio... Ma cerchi ristoranti italiani o ti fidi di qualcuno? No, non mi fido, ci sono ristoranti italiani, non mi fido assolutamente, non mangio quasi mai nei ristoranti russi, anzi dico quasi mai perché mi sembrerebbe offensivo dire mai, ma la realtà non lo dice nessuno, è che non mangio mai nei ristoranti russi, questa è la verità, perché fanno quelle zuppe, che goulash, quelle cose tutte, e poi anche il caviale, io ormai vengo qua da più di 35 anni e ormai ho preso le mie buone precauzioni anche sul caviale, che ci ho preso delle coliti pazzesche. E poi c'è l'aspetto della prestazione, cioè prima di un concerto, concerto alle ore 21, la giornata si mangia all'ora di pranzo, si fa una merenda alle 18:30, un po' come i calciatori? Sì, grosso modo sì, io mangio all'ora di pranzo, io mangio molto di più a pranzo che a cena, ma questo per... Bravo, complimenti. Non mangio quasi niente a cena, ormai ho dimenticato le grandi cene con gli amici, poi da 3 mesi non bevo neanche l'alcol, quindi pensate come sto messo, no? Però non bisogna mai mangiare prima di andare a cantare. Questo è gravissimo, solamente io lo vedo fare a qualcuno e sono dei marziani, perché io mangio magari un piatto di pasta in bianco alle 5:30, 6:00, se devo cantare alle 9:00. Perché sennò c'è il ruttino, scusate, non è molto elegante alle 9 di mattina dire questa cosa. Il reflusso aerofageo. Esatto, quella roba lì, cioè, che non è simpatica. Anche i telecronisti, insomma, in qualche modo... Infatti hanno anche senso. Pier, le ultime telecronache, ho visto che tu eri alle 6 di pomeriggio con la telecronaca alle 9:00, mangiavi un piatto di pasta scondita. Allora, il maestro Sandro Piccinini, che è il grande teorico del non mangiare per tante ore prima della partita, appunto dice quello. Io onestamente rischio nel secondo tempo di avere il calo di zuccheri, quindi io qualcosa mangio, però sono d'accordo, cioè non mangerei mai un piatto di pasta un'ora prima di una telecronaca, mai. Se c'hai il calo di zuccheri, ti prendi un pezzetto di cioccolato fondente, sei a posto, esatto. Una volta la parte psicologica che influisce molto e quindi ci porta a fare le grandi buffate. Io però sono fra quelli che mangiano dopo, onestamente. Ecco, difatti Pier dice che ogni trasmissione alla fine ti vedono sul tavolate. Parliamo con Enzo. E invece, la tua origine ovviamente è toscana, Ponticino, provincia d'Arezzo, terra di grande carne, di grande cucina di terra, anche di selvaggina, penso, no? Anche di selvaggina. Io non sono cacciatore, non ho avuto cacciatori importanti della mia famiglia, però ho mangiato senza problemi per anni anche la lepre, praticamente il fagiano. tutto il coniglio, tutto ciò che insomma è il tordo, mi ricordo i grandi arrosti, i giro arrosti di tordi del giro arrosto di Pontassiere, quando andavo alla partita a Firenze con mio papà a vedere la Fiorentina, la tappa, io ero un ragazzo, era a mangiare i tordi a giro arrosto a Pontassiere, ragazzi. Come sono selvaggina da piuma era. Come sono fatti? Arrosto con... Sì, girano per ore, poi c'hanno il pane, un tordo, tra un tordo e l'altro c'è il pane, codano, ma sono buonissimi, veramente, io me lo ricordo come ti pensa quanto io sono tifoso della Fiorentina, ma mi piaceva più andare alla partita perché ci fermavamo a giro arrosto a Pontassieve, capito? Beh, che voglio dire? Cioè, poi dipendeva anche un po' dal risultato della partita. Ma continui ancora adesso a mangiare selvaggina? No. Ma come mai questo cambio di marcia? Perché segui le mode o perché non te la senti? No, perché io seguo il mio corpo e mi ascolto molto, Davide. Mi ascolto molto e negli ultimi anni la carne ne mangio meno perché non sono vegetariano assolutamente e gli estremismi sono odiosi per me. Giusto, io ogni tanto mangio anche una bella chianina. Una bella chianina, quella molto tenera, mi piace al sangue, ma poco. Però scusami. Selvaggina meno, perché ci sto peggio, perché la selvaggina è buona, dice anche un buon condimento, è un buon sugo, e i sughi io non li digerisco più. Però questa cosa è molto interessante, no? Ascoltare i segnali del proprio corpo, che purtroppo cambia. Siccome lo sento molto attento all'alimentazione, anzi complimenti per aver levato la cena, aver aggiunto a pranzo le cose, il cibo, eccetera. Però guarda che la carne è a basso contenuto calorico, tutta quella di selvaggina, soprattutto da piuma, e quindi magari paragonata a una carne rossa così intensa, secondo me qual è quella selvaggina da piuma, diciamolo, qual è la selvaggina da piuma? Da piuma, ma anche il pollo è chiaro, tutti, può essere il pollo, il fagiano, può essere la beccaccia, la beccaccina, sono tutte queste carni bianche che hanno poco apporto calorico e quindi hai una digestione più facile. Mentre ovviamente io di carne bianche mangio solo pollo e coniglio. Sì, ci sta per un'alimentazione. Qualche volta il tacchino perché è meno insipido del pollo, insomma, lo mangi anche meglio. Va bene, chef, fermiamoci qualche minuto per la viabilità, poi torniamo, dopo il traffico. Mangia come parli. Rieccoci a Mangia come parli, vi ricordo il 349-238-6666 per i vostri messaggi vocali per l'SOS Oldani. Siamo con Pupo, grande tradizione toscana, però anche, devo dire, questo secondo me è un segnale importante anche dal punto di vista proprio medico, il fatto di seguire i segnali del proprio corpo, ovviamente per star bene, certo, se c'è una cosa non la digerisci bene è ovvio che non la prendi, però è una grande forma secondo me di intelligenza, insomma, applicata alla propria condotta di vita. Invece il tuo rapporto con i piatti tipici toscani, che non so, la ribollita mi viene in mente, la pappa al pomodoro. Sì, tu guarda, ribollita, pappa al pomodoro, diciamo tagliatelle alla lepre, poi tutti i secondi. E poi ci sono anche delle minestre di farro, senesi. Tu calcola che io ho avuto per 15 anni un ristorante albergo, quindi, e poi sono un grande appassionato di cucina perché sono amico e conosco tutti i più grandi gourmet stellati di Italia. Ma c'è una ricetta che sai fare, proprio il tuo cavallo di battaglia? Io non so cucinare, sono veramente la negazione della cucina, ma sono... Credo di essere, scusate un po' la vanità, un ottimo intenditore sia di cibi che di vini, perché ho passato la mia vita da 40 anni alla ricerca sempre del mangiare di qualità, sempre di qualità. Ci dai un consiglio allora a questo punto sul vino e sul tema nostro di oggi della selvaggina, con una selvaggina abbastanza con un intenso sapore, profumo, eccetera, cosa abbineresti? Come può essere un capriolo, mi viene in mente. Allora, un capriolo, io se vogliamo spendere qualcosina in più ci metterei magari un tignanello, ma è chiaramente che sta bene in parecchie, è abbinato a parecchie fuori, diciamo, dalla tua regione, fuori insomma sud Italia, fuori dalla mia Italia, un bel aglianico o Agnani, oppure anche i vini del Salento, che io amo i vini del Salento, primitivo. il primitivo esattamente, oppure anche quello, quei vini, anche i vini siciliani, i regaletti, diciamo, sì, quei vini molto molto pieni di sole. E poi io sono un grande appassionato della zona di Bolgheri, a parte i famosi Sassicaia o Ornellaia, ci sono dei vini a prezzi molto molto buoni, tipo, non so se le posso dire uno, si chiama, io non è che ho delle percentuali, ma dillo, si chiama il bruciato di Antinori, vabbè. è un vino straordinario per quello che costa, ecco, per dire. No, ma l'enologia italiana che è cresciuta, e quindi ma poi con la selvaggina io metterei anche qualche bel rosso piemontese, comunque. Sì, chiaro, ma anche qualcosa la grain, il pilon nero, dai, e sarei forse un minchione. Certo, ragazzi, però parlare di questa roba alle 9:20 del mattino, adesso sinceramente già la selvaggina è abbastanza, non mi può venire la fame alle 9:20 del mattino, invece mi viene. Pupo, in bocca al lupo per tutto. Grazie, per i tuoi progetti. Pupo, tu sei uno degli ambasciatori della cultura italiana all'estero, ovviamente. Cerco di fare nel mio piccolo, non è una battuta, insomma, cerco di fare il mio meglio, dai ragazzi. Assolutamente. Grazie. Adesso ci sentiamo presto, ovviamente, quando torni lì dal Kazakistan, dove stai? Chi è il prossimo ospite? Paolo? Oh, Paolo Vizzari, come stai? Buongiorno. Ciao Paolo, buongiorno. Di sapere, benvenuto. Ci fanno gli scherzi, Senti, come va? Tu hai iniziato nel 1990 a girare per ristoranti e, diciamo, non mi pare che ti sia mai fermato, e fai il lavoro che vorrei fare io, essenzialmente. Cioè, no. Quello che vorrebbero fare in molti. Lo so. Perché di solito non si conoscono tutti i retroscene del lavoro, di cui immagina solo la parte dorata, che mi rendo conto essere bellissima e invidiabile. Sì, è un po' come il telecronista, devo dire. Cioè, anche il telecronista ha delle piccole rotture di scatole, ma in realtà sono piccole rispetto, ovviamente, alla parte dorata. Senti, continuo a pensare di fare il lavoro più bello del mondo, al netto di quelle noie, ecco. Sì, no, assolutamente. Senti, com'è tu hai iniziato, ovviamente, con i ristoranti d'Italia dell'Espresso. Tra l'altro, hai iniziato con la grammatica sperimentale di Gadda, la filologia. Insomma, c'è un substrato molto forte. E allora non posso non chiederti quanto è profondo questo intreccio fra cultura e gastronomia, soprattutto quando la gastronomia, come quella che spesso abbiamo in Italia, è di altissimo livello. Ma guarda, Pierluigi, per me è totale, nel senso che, specie negli ultimi anni, in cui per fortuna l'attenzione si è spostata un po' di più verso quello che mangiamo, non solo parlo dei ristoranti di cosiddetta cucina d'autore o alta ristorazione, ma proprio in generale anche sulle massaie che vanno a fare la spesa. E io penso che il modo più facile, io scrivo anche di viaggio oltre che di cucina, il modo più facile per conoscere un'altra cultura o farsi un'idea di un paese sia sedersi a mangiare con la gente di quel paese. Certo. Vedere come mangia e chiedersi come mai. Quindi quando trovi un ingrediente invece che un altro, è il caso banale del chinino dell'acqua tonica nel gin tonic, che veniva usato per prevenire la malaria dagli inglesi nelle colonie indiane. C'è sempre della cultura dietro la ragione che porta a mettere un ingrediente invece che un altro. Paolo, in tutti i tuoi viaggi, nell'ultimo mi sembra tu sia stato in Sud America, se non sbaglio, mi dicevi. Sì, ecco, come vedi il fermento della ristorazione, come vedi il fermento dei cuochi e soprattutto il fermento della materia prima, che poi è la cosa che a me, cuoco, interessa di più. Certo, ma il Perù è un ottimo esempio per fare questo tipo di discorso, perché da pochi anni si sono accorti anche loro di avere una biodiversità e quindi una varietà sul singolo prodotto fuori dal comune. E penso che in questi anni l'importanza del prodotto stia crescendo ancora di più, nel momento in cui ogni cultura ha capito che deve esprimere la propria identità gastronomica. Quindi se tu cucini gli stessi ingredienti nella stessa maniera da New York a Pechino, nessuno viaggerà per venire a mangiare da te. Se invece tu cucini il tuo paese, la tua famiglia e la tua cultura, allora se io voglio sapere da dove arrivi e qual è la tua storia, devo sedermi a tavola. Quindi tentare di replicare le cucine o, insomma, di importare o esportare i prodotti, cosa credi sarà un po' il futuro, oppure ci limiteremo a viaggiare per andare a scoprire questi prodotti? No, credo che in maniera sana le due cose poi andranno sempre più a sposarsi e a intrecciarsi, nel senso che senz'altro è più bello viaggiare e andare a scoprire un prodotto, Dopodiché io penso al pomodoro, che è un ingrediente che noi abbiamo importato in Italia, anche se lo sentiamo come italiano, perché poi nel tempo, nell'arco di 4-5 secoli, l'abbiamo poi declinato molto più delle culture che l'avevano trovato per la prima volta sulle loro terre. Quindi il Sud America non ha una cultura forte del pomodoro. L'Italia, specie nella parte del sud, è incentrata su quello. Certo. Quindi a volte anche... diciamo gli ingredienti meticci possono portare grandi risultati. Beh, insomma, le razze, basta, questo è un concetto che vale in assoluto. Vabbè, poi io sono, diciamo, antirazzista per definirsi proprio compiutamente, ma è nel miscuglio, penso al 100% per quella che è la mia umile esperienza, è nel miscuglio delle storie e delle razze, usiamo proprio anche questa parola, ecco, che nasce la ricchezza, non è... Invece una domanda su quello che è il nostro tema di oggi. Più, se ti dovessi dire piuma o pelo, cosa dici? Detto così, io personalmente adesso ti direi piuma, però è sempre un argomento molto scottante in Italia da affrontare, specie negli ultimi anni. Direi che comunque ci siamo concentrati sulla selvaggina, vista la domanda. Sì, no, lo auguro. Voglio dire che abbiamo due maniaci dietro al vetro che hanno, pensavano ad altro, ma siamo parlando, abbiamo detto tutta la puntata che parliamo di selvaggina. No, il tuo piatto preferito, partendo da una lepre alla royal piuttosto che un qualcosa di cucinato arrosto, cosa mi dici? L'ultimo tuo consiglio? Tu sai, Davide, che io ho una formazione di via Paterna, perché come hai detto prima per Luigi, ho cominciato a girare dagli anni 90, ma io sono nato nel 90 anche, perché in realtà ho iniziato a viaggiare che ero un embrione, con mio padre che fa questo mio mestiere da tanti anni, e per me la Lievra Royale, che di cui hai parlato tu, è proprio il piatto della vita per quanto riguarda la selvaggina. La versione più buona che hai assaggiato nei tuoi viaggi, naturalmente francesi, parigini. Vogliamo dire a chi lo sapesse che cos'è spieghiamo. Adesso Davide darà la ricetta in maniera pedissequa, perché anche lui ha una formazione francese di un certo livello. Ma io devo dire, sono affezionato su quel tipo di ricetta, io sono molto affezionato alle esecuzioni classiche, anche se sono un po' pesanti, un po' ridondanti, trovo che sia una cosa che uno mangia in maniera così saltuaria che ci si può permettere anche di goderne a pieno, e quindi direi che la mia Lievra Royale della vita è quella che faceva Joël Robuchon a Monte Carlo. Grande, confermo questa cosa. Ma cos'è esattamente? È la lepre che viene cucinata, alcuni la disossano, altri la tagliano a pezzi, altri fanno un qualcosa dove mettono a marinare questo animale e recuperano il fondo di cottura, il fondo della marinata con la cottura nel quale mettono questa lepre, e poi c'è una farcia, ci sono delle cipolle, c'è chi mette un soffritto abbondante, quindi questo credo che vada bene per te. E poi si recupera naturalmente anche la frattaglia, cioè il fegato, il cuore della bestia, si viene in alcuni casi fatto candire e in altri no, e basta, questo è la ricetta veloce della lepre alla royale. Paolo, se dovessi chiederti in 30 secondi com'è lo stato della ristorazione italiana, nel senso, negli ultimi anni è cresciuta molto la comunicazione, l'informazione, anche la spettacolarizzazione del cibo in TV, in radio, anche noi che siamo qui, voglio dire, il nostro grande siamo qua, il nostro enorme siamo qui, ma il livello invece dei ristoranti e della cultura gastronomica in Italia com'è? Ma è mostruosamente alta ed è in un'ascesa quasi inarrestabile, oserei dire, perché d'altronde, voglio dire, da una testa si formano due discepoli, dai due discepoli se ne formeranno quattro, e così andando. Quindi negli ultimi anni, devo dire, penso che Davide possa confermarlo, sono quasi spaventato da quanto sono brave le nuove leve, le nuove generazioni, rispetto, anche perché penso uno dei dati decisivi oggi, paradossalmente, per la crescita di un cuoco italiano è anche l'accesso a internet, che permette a chiunque di informarsi, vedere, avere una cultura molto più universale e più veloce, soprattutto più veloce. Sì. Esatto. Io ricordo che quando iniziavo, Paolo, andavo in giro col bigino della ristorazione, col dizionario gastronomico in tasca, che era più il peso che il resto. Oggi con uno smartphone ho tutte le informazioni che voglio, quindi molto più facile. Questo vale in tutti i settori, anche banalmente del mio mondo, il mondo della tattica calcistica, per esempio. È chiaro che oggi c'è una circolazione delle idee, delle immagini, delle partite, della cultura dei giocatori, dei metodi di allenamento, che è molto più forte rispetto al passato. Bene, siamo contenti. E caro Vizzari, lo so che lei nel 91-92 quegli omogenizzati, quegli omogenizzati c'era ancora dentro, però adesso invece si deve accontentare dei grandi ristoranti. Grazie Paolo. Grazie Paolo. A presto. Ciao, a presto. È sempre un grande piacere. Ci fermiamo per un attimo, c'è la ricetta fra poco, poi l'SOS Soldani, altri ospiti fra poco. Mangia come parli, mangia come parli. Oh, mangia come parli, è la puntata dedicata alla selvaggina. Abbiamo sentito il nostro amico Pupo e poi Paolo Vizzari con, insomma, lo stato dell'arte dei ristoranti italiani e non solo. Vi ricordo che fra poco avremo l'SOS Soldani, 349-238-6666. Vogliamo fare la ricetta o partiamo da... Due consigli possiamo... Sì, diamo due consigli, perché, allora, abbiamo parlato, quindi piuma o pelo? Buoni ragazzi da dietro, tutte le volte che diciamo, diciamo prima pelo da dietro fanno delle grasse risate. Definiamo volatili in poche parole quella da piuma, ti posso portare un esempio su tutti, poi la tecnica per cucinarla o bene o male è quella. Mi viene in mente anche l'anatra selvatica, certo, o quella che i francesi chiamano col vert, quella col collo verde, che sono quella tra le più pregiate. C'è sempre una parte di petto, così come è nel pollo, e una parte di coscia. Sarebbe la cosa che migliore da fare. Petto e coscia? È sostanzialmente la differenza è grande perché tu hai il petto che è morbido, che è magro, che non ha una vena di grasso, che non ha un nervo. E poi hai la coscia che ha un po' di nervature, quindi indovina a me quale piace di più? Quella, la coscia. Ma sai perché ti piace più la coscia? Perché il petto l'hai sempre mangiato troppo cotto. Ah sì? È chiaro, quindi la cosa fondamentale per cucinare un volatile tipo anche questa selvaggina è staccare i petti dalle due cosce e fare le due cotture separate. Allora, la coscia che è più nervosa io consiglio sempre di farla confì, quindi immergerla in un grasso che può essere, una volta era lo strutto di maiale, adesso si può utilizzare anche un buon olio extravergine d'oliva, portarlo a una temperatura di 80-85 gradi per un lungo periodo. Quindi questa quanto coscia, ci vuole per portarlo a 85 gradi? No, per portarlo a 85 gradi ci vogliono 2-3 minuti, okay. Basta alzare il fuoco, poi mantenerla a questa temperatura, immergere le cosce e farle cucinare. Poi tu hai i due petti o il petto unico che tu cucini in maniera più veloce, magari con un goccio, con una nocciola di burro, una noce di burro, la metti in padella e normalmente il petto per bestie da 1,5 kg, 1,8 kg, o 2 kg al massimo, che sono quelle più ricercate e più nobili, prende all'incirca 12-14 minuti di cottura, mantenendo il petto rosa. Calcola che Gualtiero Marchesi, negli anni 70, il mio grande maestro, il maestro di tutti i cuochi italiani, iniziava a proporre negli anni 70 la selvaggina cucinata in questa maniera, e mi ricordo che ci fu un grande problema su quello che era la cottura, su quello che era la cultura dell'approccio alla selvaggina italiano, che era solitamente ben cotta, e questo maestro che iniziava a cucinare la lepre cottura rosa, quindi ancora col sangue dentro. Allora starei con te a parlare per ore di questo, ma intanto c'è la ricetta. Sei pronto? Ricetta, io sono pronto. Vai. Allora, che cosa mi fai cucinare oggi? Sei pronto? Osiamo un po' di più. Sì. Abbiamo parlato di selvaggina, di varie cotture, ci togliamo dalle lunghe cotture e andiamo su una cosa più semplice. Vai. Allora, la cosa più semplice è andare dal tuo macellaio di fiducia, avere anzitutto un pezzo di selvaggina con tracciabilità, quindi puro. Io ti farei comprare la sella di lepre, schiena della lepre. La sella di lepre. Chi non ha mai comprato una sella di lepre? Farei disossare i due lobi. Sì. I due lombi. I due lombi, ma me li disossa lui? Te li prepara lui. Il macellaio di fiducia. Se vuoi lo posso chiamare io per spiegare bene. Okay. Quando tu hai i due lombi, le due lombate, prendi un pentolino con, in questo caso, del burro chiarificato, che lo trovi anche in commercio. Ok. Da qualche anno lo trovi anche in commercio. Lo fai sciogliere. Lo porti con un termometro a 52-53 gradi. Aggiungi 2 cucchiai di cognac. Oh, interessante. Okay. Anzi, ti direi, facciamolo più italiano: 2 cucchiai di grappa. Grappa? Va bene? Grappa barricata? No, starei più su una grappa più morbida. Ok. Ok. Mantieni la temperatura di questi 52-53 gradi, adagi i tuoi filetti così. Sì, adagio i filetti. Le due lombate di lepre. Adagio le lombate. Ok. E lasci cucinare alla stessa temperatura per 9 minuti più o meno. Sì. Ok. Dopodiché levi da questo fondo, da questa base di cottura, le tue lombate, le adagi su una griglia, le lasci riposare per 5 minuti. Sì. E il piatto è quasi pronto. Vale a dire, prendi un po' di melagrana, visto che siamo nel periodo, facile da pulire, da preparare. Chiaro, ci avevo pensato. Possibilmente melagrana italiana. Melagrana italiana, certo, non è che possiamo. Poi un po' di limone tagliato a vivo, che avevi già fatto. A vivo vuol dire? Senza la buccia, solo la parte della polpa. Sì, ok, limone, solo polpa, sì. Poi prendi qualche pinolo che avrai tostato precedentemente. Mazza che fatica, sì, pure tostare i pinoli, dai. E 2-3 pezzettini di uvetta. Mamma mia, sì. Ci siamo? Ho fatto il panettone, dai, mancano solo i canditi. Poi? Basta. Prendi le tue lombate, sì, che hanno riposato, quindi sono completamente rose. Fatica. Le tagli a fette sottili e le servi con questi tre con pezzi di frutto e un goccio di olio. E e come lo chiamiamo il piatto? Lepre. Insalata di lepre e frutta. Insalata di lepre e frutta. Selvaggia Lucarelli, come stai? Hai sentito la descrizione? Selvaggia, ciao, buongiorno. Sì, hai capito? Buongiorno a me. Cioè, allora, quella cosa che mi viene da pensare, sentendo appunto la descrizione, sai quante cose avrei fatto nel frattempo? Esatto, quanti errori, no? Anche, si può dire? No, ma altre cose. Altre cose in cucina, immagino. Fuori dalla cucina. Io non sono un amante del cucinare. Molto della cucina, meno del cucinare. Ecco, è un po' come me. Quindi, diciamo, tu non hai una tua ricetta da proporre al nostro pubblico, no? Io ho delle ottime ricette altrui che scongelo. Sì. Tipo, faccio un esempio, l'ultima scongelata. Aspetta, facciamo che il jingle. Il consiglio d'autore di Selvaggia Lucarelli. La passione si sente. Allora, cos'è che scongeli? Che scongelo? Sì. Scongelo un sacco di cose. In particolare ci sono dei salmoni gelati. Lo so, Davide, ora avrà un mancamento. Ma che sono niente male, devo dirti. No, ma l'ultima scongelata che hai fatto quando hai pranzato o cenato, quello che ti ricordi? Con salmone e pachino, guarda. Una cosa con salmone, patate e pachino. Salmone, patate e pachino, eh? Sembra quasi un messaggio in codice, Se la Lucarelli ti arrivava al cuisine. Ma tipo nel periodo in cui eri single, che facevi? Scongeliamo qualcosa stasera? Cioè, perché ha una carica il salmone col pachino, è importante, eh? Dai, è anni 80, secondo me fa sempre la sua figura. E poi devo dire che io ho scongelato tanto anche per mio figlio, perché comunque avendo avuto una vita appunto da single, mamma single per tantissimi anni, capisci bene che mi sono ritrovata il tema di mio figlio a scuola, qual è il piatto che preferisci che sta tua mamma, e lui ha risposto la mozzarella. Buono. La sa selezionare, perfetto. Beh, la mozzarella va saputa fare. Tu la facevi ovviamente in carrozza, fritta, certo, no? Certo, esatto. Certo, piatto. Proprio lì con barili di latte, io mungevo la mucca. E lì una giovane madre cosa pensa? Una giovane madre? Va in analisi direttamente oppure no? Cioè, voglio dire, la vive con serenità. La vive con serenità, naturalmente a tratti si è sentito un po' diverso, però devo dire che l'ho portato tanto al ristorante, quindi è il classico bambino che è cresciuto conoscendo una gamma di sapori molto ampia, e oggi se lo porto da un thailandese, da un giapponese, un birmano, lui comunque è abituato ai sapori anche di altri paesi e non fa lo schifoso. Cioè, fa il bambino che chiede, capito, il merluzzo o cose da bambini. Insomma, un bambino molto aperto. Io amo molto la cucina esotica, devo dire. Senti, non solo la cucina. In 10 piccoli infami, che è il tuo libro, è andato benissimo, che sta continuando a vendere tanto, molto molto divertente, c'è non è una scena, perché non è fiction, ambientata dentro a un bosco, non svegliamo nulla, ma tu hai un rapporto con la... Tu vieni dal nord del Lazio, no? Cioè, lì la cucina di terra, la selvaggina, si mangia. E certo, perché noi siamo quasi nella Maremma, fai conto che il nord, io ero nord di Civitavecchia, vengo da quasi Tarquinia e lì siamo ai confini con la Maremma, quindi la selvaggina effettivamente, cioè dire la selvaggina, mangio la selvaggina sembra un atto di cannibalismo nel mio caso. Certo. Comunque, certo. Devo dire che ne ho mangiata sempre molta, la zona di Capalbio per esempio, che è molto vicina alla mia città d'origine, Civitavecchia, è una zona in cui si mangia di tutto, dalla lepre a qualcosa. E ti piace? Ti piacciono queste... Moltissimo. moltissimo. Tra l'altro in questo momento mi trovo, mi chiamate, sono a Warwick in Inghilterra, Warwick. E anche questa è una zona di selvaggina. Ma infatti tu ti muovi, diciamo la verità, diciamolo, ti muovi solo fra zone di selvaggina, cioè tu ormai praticamente fai la caccia alla volpe, sei una nobile inglese, no? Vai in giro lì col cavallo, sì, col cavallo. La copertina, certo. Ti consiglio di cercare le pernici e le beccacce lì dove sei, ci sono un po' di ristoranti interessanti dove puoi assaggiare queste molla cose. Molla tutto adesso, subito, lascia tutto. Dimmi, dove devo andare? Guarda, ho fatto Stratford. Trovi Boston. Nelle strade lì, chiedi, perché poi adesso è il periodo buono e c'è tanta. Soprattutto chiedi delle beccacce che ti diranno. Insomma, come ti si dice in inglese? Excuse me, do you have a beccacce? Beccacce. Dove mangia la beccacce? Dove mangia la beccacce? A Stratford upon Avon, eh? Roba. Ne ho viste molte, perché qui ho fatto un sacco di strade di campagna e camminano beatamente per strada. Cioè, ad avere un e quando te la servono, non come accadeva tanti anni fa in alcuni ristoranti, la beccaccia la riconosci perché ti danno anche la testolina che farciscono con il patè fatto col suo fegato, quindi è fantastico, una ricetta classica. L'appoggiano sulla beccaccia che ti servono, ti posso il petto, dire che la quaglia e la testina. Vi posso dire, io adesso non sono, sapete, sono tollerante, ricetta classica, e mangio la carne, però ecco, queste esagerazioni, può vedere la testa della fa parte, non è la cultura, la cultura, ho capito, la cultura, però voglio dire, quindi selvaggia, mi raccomando, vada subito, si rechi subito e trovi la prima beccaccia che incontra e se la faccia mettere con la testina. Io volevo ringraziare Davide per Luigi, perché io ho già pochi nemici, ora mi ci mancavano anche vegetariani, capisci? No, vabbè, ma che c'entra? Nel mio spazio no. Ti consiglio di mangiare anche la testa della beccaccia. No, la testa della beccaccia, anzi io faccio a questo punto, a nome della trasmissione, la testa della beccaccia, decido in maniera proprio stalinista, decido io, la testa della beccaccia, no. De Luca, conferma. No, ci sono dei limiti. Per rispetto. Pappardella cinghiale. Pappardella cinghiale, invece bene. Come dire, insomma, la preghiera, voglio dire, va bene. Bene, ragazzi. Ecco, poi vi dico, io non ho so che ci sono associazioni di cacciatori assolutamente rispettabilissime, io non ho quel genere di piacere, cioè penso sarei in difficoltà a sparare a un animale, però insomma a mangiarlo con una pappardella sì, dice, c'è una contraddizione, sì, probabilmente sì, però insomma è un dato di fatto oggettivo. Fra poco ripartiamo, grazie Selvaggia, ciao, mi raccomando, Selvaggia. Saluti le beccacce e le pernici, vada a scongelare un salmone, faccia fare amicizia fra salmone e beccaccia. 349-238-6666, fra poco ripartiamo degli SOS Oldani. Mangia come parli. Siamo pronti per il momento dell'SOS Oldani? Sì, siamo pronti, eccolo. SOS Oldani. Vi ricordo ovviamente il numero 349-238-6666 per i vostri vocali, per chiedere aiuto, in certi casi proprio un SOS, al professor Oldani. Cominciamo da Cristian da Pavia. Chef, so che è un appassionato di calcio, ora le partite si disputano anche alle 12.30. Qual è l'alimentazione giusta per poter giocare in quell'orario? Per poter giocare la condizione giusta, direi un piatto di pasta, anzi abbondante pasta, ma alle 9 della mattina, non oltre. Basta. Infatti i calciatori si svegliano, fanno colazione con un carboidrato importante, se vuoi una verdura cotta, quindi con facilità di digestione, basta. E poi il pranzo dopo la partita? Dopo la partita poi c'è la propria scelta, insomma, uno poi può mangiare, però certo. Prima non nelle tre, ma nelle quattro ore precedenti. L'ho fatto anch'io quando ero calciatore, quando ci provavo ero in C2 a 16 anni. A livelli giovanili, nelle categorie minori, spesso si gioca la mattina, addirittura si gioca anche alle 10, 10 e mezza, alle 11. Quindi vabbè, insomma, dai, si può fare. Silvana da Caserta. Buongiorno, Dani. Volevo chiederle, ma qual è il segreto per non far crollare i soufflé? Di solito i miei crescono bene in cottura, ma appena li tolgo dal forno si sgonfiano in pochi minuti, ma come mai? Beh, un fenomeno di simpatia innanzitutto, Silvana da Caserta, le mandiamo un grande bacio, eh. Allora, come si fa a non far sgonfiare questi soufflé? Allora, direi che già se si gonfiano nella cottura vuol dire che la ricetta era buona. Bisogna fare solo in fretta, levarli dal forno e servirli, perché se la ricetta, se si gonfia, vuol dire che c'è una buona ricetta. Quindi è una corsa contro brava. Il tempo. Brava Silvana, brava e simpatica. Simone da Torino. Salve chef, c'è un piatto che invita ad un suo collega? Un piatto che avrebbe voluto pensare lei? Interessante questa. Devo dire devo dire che riproporrò un piatto del mio primo grande maestro, lo stiamo pensando per poter rendere onore a questa grande, a questo grande piatto che è il raviolo aperto del, di Gualtiero Marchesi. E invece di quelli dei, dei tuoi attuali, non rivali, perché poi avete un rapporto bellissimo, no? Con tutti gli altri. No, no? Ma dai, oramai la, la cucina è, non è più ferma come anni fa su due, tre, quattro piatti. L'evoluzione è totale. Prima diceva Selvaggia, certo, della, di, dell'utilizzo di internet. Per esempio, o di Adria, Paolo Vizzi. Ferran Adrià. Sì, ma è un grande, che ha fatto il cambiamento, ha cominciato il cambiamento e l'approccio diverso al cibo, l'ha fatto oramai 15 anni fa con la cucina destrutturata. Bocuse che faceva? Bocuse, io sono un filo più classico, quindi seguo il filone Paul Bocuse. Il piatto più rappresentativo è la zuppa del presidente del 1972, dove fece questo pollo con brodo, verdure, il tartufo nero pregiato di Périgord e questa sfoglia sopra, quindi serve questa ciotola molto bella e questa sfoglia, bello, questo pallone di sfoglia sopra che è una, anche, una cosa anche spettacolare. E invece Ducasse? Ducasse, per quello che mi ricordo, quando, quando ero là c'era questo, queste verdure provenzali fatte con un burro bianco, un aceto balsamico italiano e un tartufo nero italiano. E invece Pardo? Pardo? Pardo, chi è Pardo? Pardo, Pardo, Du Spag. No, Ducasse, Du Spag, vabbè. Va bene, no, è interessante perché insomma, ovviamente il tuo piatto simbolo è la cipolla caramellata o no? Sì, cipolla caramellata è quello che rappresenta. Cioè tutte le volte che io la cito, tu in fondo ti incazzi perché ce ne sono molti, no, altri, devi pagare, oppure... devi pagare le royalties. Le royalties. No. Come si fa la cipolla caramellata? Cipolla caramellata è semplice. Hai presente la tartatin? Tu sei pratico. Sì. Tartatin di mela, uguale. Sì. Togli la mela, metti una mezza cipolla che tu cuoci a vapore per mezz'ora. Sì. L'asciughi, l'appoggi sopra uno strato di burro e zucchero, copri con una sfoglia e metti in forno. Una tartatin di cipolla. Ma come ti è venuto? A furia di cucinare, allora, quando ero alle Gavroche a Londra ero nel periodo della pasticceria dove facevo le tartatin, tipo 50 tartatin al giorno per un lungo periodo fatto, e da lì ho preso lo spunto di poter cambiare un frutto con una verdura e da lì poi è nata tutta la storia della cipolla caramellata. All'inizio devo dire che la servivo con una grattugiata di tartufo nero, poi avendo visto le fatture del fruttivendolo l'ho cambiato, detto, sono andato più nel concetto del grana padano caldo e freddo. Va bene, ricetta, vai! Allora, la ricetta del giorno. La ricetta del giorno è la insalata di lepre, di sella di lepre alla frutta. È alla frutta o sei alla frutta? Io sono alla frutta. Io direi facciamo lombata di lepre con melagrana e limone, così è più semplice. Vabbè, okay, no, mi sembrava più semplice prima, ma hai detto così. Comunque va bene, io faccio una cosa. Innanzitutto identifico nel quartiere un macellaio di fiducia, che è il primo problema. Vabbè. Fantastico. Una volta che l'ho identificato, vado e gli chiedo una sella di lepre. E gli chiedo anche gentilmente se mi risossa lui due lombi, perché a me francamente insomma adesso cioè, tutta la settimana che lavoro me la faccio risossare da lui. Poi a questo punto ho le mie due belle lombate, le metto in un pentolino con del burro chiarificato, che adesso si comincia a trovare in commercio con una certa regolarità, ce l'hanno anche al supermercato, l'ipermercato, no? Il burro chiarificato, perfetto. A questo punto faccio una cottura a 52-53 gradi col mio termometro. Yes, ma il termometro come si... Come si dice? No, dico, tutti hanno il termometro in cucina. Si trova in commercio. Cioè, Simone c'ha il termometro a casa, ma non so, secondo me sì, anche quelli precisi per la pasticceria, quindi lo puoi usare. Va bene. Aggiungo due cucchiai di grappa, di una grappa morbida. Non seguo la ricetta francese col cognac, perché sono un po' più italiano, e quindi due cucchiai di grappa morbida. A questo punto adagio i filetti e li lascio riposare. Li lascio riposare per lascio circa... cuocere. Certo, li lascio cuocere, non ci mancherebbe altro, a 52-53 gradi. Poi una volta che li ho cotti li metto sulla griglia, li metto a riposare per circa 5 minuti, no? Dopo 9 minuti di cottura e 5 minuti di riposo. Esatto. A questo punto prendo la mia bella melagrana italiana e prendo il limone soltanto nella parte aperta, quindi quella della polpa. Chiama tagliare a vivo, quindi taglio a vivo, certo, sì, non volevo fare il solito spocchioso, comunque chiaro, tagliamo a vivo. Poi a questo punto il pinolo che avrò precedentemente tostato lo aggiungo assieme a 2-3 pezzetti di uvetta. Perché pezzetti non è tecnico, 2-3 acini. acini di uvetta, di uvetta, oppure due o tre pezzi di uvetta. Due o tre pezzi di uvetta. A questo punto ho fatto la mia insalata. Devi tagliare la tua, devi scaloppare molto finemente la lombata di lepre. Mi piace molto perché avevamo fatto, ti ricordi, nella puntata della castagna avevamo aggiunto l'arancia alla fine, no? Quindi con una combinazione avevamo fatto diventare un piatto un po' più mediterraneo, piatto nordico l'avevamo fatto un po' più mediterraneo, in fondo anche qui, no? Perché con una cosa abbastanza tosta come la lepre, alla fine abbiamo aggiunto degli elementi: limone, melagrano, uvetta e pinolo, che danno un senso più mediterraneo, più fresco, più estivo, se vuoi anche, no? Sì, però in questo caso il limone abbiamo usato la polpa, quindi la parte acida. Nella parte della castagna avevamo messo il profumo perché avevamo usato gli oli essenziali dell'agrume e dell'arancia in quel caso. Senti, facciamo un classicone che ci riporta agli anni 80 all'antica Wild Boys. Sì, all'antica rivalità fra Duran Duran e Spandau Ballet, e questa era insomma una delle... Per chi eri tu? Ma io non ero, perché ero un pischello piccolo, ero più, se devo dirti, più per gli Spandau, perché anch'io. Però insomma Wild Boys si fa sentire e noi la sentiamo. Insomma, i Duran Duran, Wild Boys, classicone anni 80. Insomma, del resto oggi abbiamo avuto Selvaggia Lucarelli, abbiamo parlato di Selvaggina, e insomma anche i ragazzi selvaggi di Duran Duran avevano pieno diritto di cittadinanza qui a Mangia Come Parli. Il consiglio antispreco qual è? Il consiglio antispreco è un consiglio sempre nella parte del benessere e della tutela, quindi di certificare che quando si acquistano selvaggine da piuma, da pelo, debbano essere certificate, avere la tracciabilità. Questa è la cosa più importante da fare. Bene, così come è importante ricordarvi che c'è una pagina Facebook, quella di Mangia Come Parli Radio 24, c'è una segreteria telefonica 02 30 22 41 84, potete inviare lì i vostri SOS oldani, oppure anche via WhatsApp al 349 238 6666. Grazie per le tante mail che ci stanno arrivando a mangiacomeparli@radio24.it. insomma, ogni settimana cerchiamo di divertirci in maniera pop, come vuole il maestro Oldani. Grazie. Con la cucina, e poi ci viene appetito. Per oggi ci fermiamo qui. Appuntamento con Mangia Come Parli domani. Caro chef, a che ora? Assolutamente alle 10.30. 10.30, tu ci sarai? Ci sarò sempre presente. Di solito arrivo sempre in anticipo. Tu arrivi prima, io in ritardo. La mise en place in cucina è fondamentale per fare buona cucina. 10.30 domani. Ciao, ciao. Mangia Come Parli di Pierluigi Pardo e Davide Oldani, in onda sabato alle 9 e domenica alle 20:00.